Girondins, Girondin, Gironja Love. Bye. Essere stati in casa, in giro c'è qualcuno che non è venuto nelle vostre Polaroid. Niente santi, né assassini, né comunque una cosa sola. Non aprite agli ospiti un po' scomodi. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare. E sembra che in città ci sia qualcuno che non è finito mai in TV. Niente carne da partito, né da indagine di mercato. Come state, ce lo dite, quando siete di fronte alla scritta sul muro. Sul muro. Che dice i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, in giro, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, in giro. La radio sta dicendo che qualcuno non viene a. Qualcuno non scorda mai chi siete sempre stati e chi sarete voi. C'è chi stona fuori coro, ma non parlate con lo straniero. Con chi passa e vi saluta proprio al centro di quel vostro brutto pensiero. Pensiero. Badate, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, in giro, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, in giro. C'è chi rompe e non chiede scusa. Ce lo dite cosa fate a chi piscia nel vostro più bel cimitero. Davvero. Badate, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi.